Mia piccirella de vieni allo mare, nella barchetta v'è un letto di fior, la bianca brora somiglia a una letara, l'ora delle stelle spavilla. Mia piccirella, e vieni, vieni allo mare, vieni allo mare. Quando tu verrai, la veglia scioglierò. Per amarti porterò, lontano sai quel mar ti porterò, sì, mia piccirella, se vieni al mare, se vieni, se vieni. Piccirella, tu chiudi o andiamo, ti affida al vento, ti affida all'amor. Tu sola notte, vuol dirti che t'amo, e tu sola notte, vuol friggerti al cor. Mia piccirella, vieni al mare, e vieni.